incapaci. Fantastici i giornalisti che non potevano. Cazzo, in realtà è in questo già con sasso. Non c'è più sfiga, non so se lo sai, mi sa passare.